Da Radio Big World, buona giornata. Sono Pasquale e oggi, come al solito, parleremo dell'opportunità di mescolare le cose per ottenere i risultati migliori per la nostra vita. Allora, oggi sappiamo, mettiamo come non discutibile, che mescolare virtù e conoscenza fanno dell'essere umano un essere più perfetto. Nella conversazione spiegheremo, chiarificheremo, dimostreremo come questo assioma può stare in piedi. Usciamo dall'essere umano e pensiamo in questo momento all'universo, alle galassie, alle stelle, ai pianeti, a questa realtà variegata dove siamo immersi, stimolati a conoscerla. Perché stimolati? Per spiegarmi meglio richiamo la terzina della Divina Commedia, dove Dante mette in bocca a Ulisse quanto sto per leggere. Ulisse deve stimolare i suoi compagni di ventura a navigare verso lidi sconosciuti, perché questo è quello, il segreto, la spinta che c'è in fondo all'anima di Ulisse. Allora, rivolgendosi ai suoi compagni, dice loro: considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Questi stimoli, queste terzine, questo verso che risale al 1300 è attuale a tutt'oggi, perché si studia nelle scuole, si parla della commedia in ambienti adeguati. Questo significa che questa testimonianza, questo sentire di 1300 anni fa, anche oggi è vero, e non solo è vero, ma è attuale e anche concreto. Allora, nel continuare delle nostre conversazioni e in riferimento alla virtù e conoscenza di cui parlava Ulisse ai suoi amici e scopritori del mondo, ci interesseremo di due argomenti differenti. Uno della virtute, che sarà per noi la solidarietà, di cui parleremo prossimamente. Oggi parliamo invece della nostra conoscenza. Vi invito di notte, al buio, lontano da sorgenti luminose e artificiali, sdraiamoci in un verde prato, supini, con gli occhi al cielo. Ci meraviglierà vedere un'infinità di stelle sopra di noi. E se utilizzassimo un binocolo astronomico, allora quella nebbia di puntini luminosi si trasformerebbe in una visione di una miriade inimmaginabile di stelle ben distinte le une dalle altre e molto luminose. Quella nebbia di puntini luminosi che noi vediamo distesi supini sul prato, in alcune zone è più accentuata, in altre invece è più rada. Questo insieme di nebbia e di puntini luminosi si chiama la Via Lattea. Noi facciamo parte di una struttura astronomica che si chiama la Via Lattea. Il Sistema Solare, noi esseri umani, Sistema Solare vuol dire il Sole, i pianeti che girano intorno, facciamo parte della galassia Via Lattea, che ha un diametro di circa 100.000 anni luce ed è costituita da 300 miliardi di stelle. Questi dati sono quelli comuni che si trovano in tutti i trattati e le comunicazioni astrologiche, non sono né fantasmagorici né legati a immaginazioni non provate. Per capire cosa significa la parola anno luce, vi faccio un esempio. Il Sole dista da noi 8 minuti luce. Vuol dire che un raggio di Sole che parte dalla stella Sole arriva sulla Terra, e quindi noi lo vediamo, dopo 8 minuti che è partito. Immaginiamo che significa un anno luce, no 8 minuti, un anno luce. E 100.000 anni luce, che significa? Riguardo al Sole vi comunico, a chi non lo sa, perché forse tanti lo saprete, una cosa curiosa. Quando la sera il Sole tramonta da noi dietro le colline del Chianti e vediamo l'ultimo chiarore dei raggi solari che arrivano, la nostra sensibilità ci inganna. Noi crediamo che il Sole sia ancora dietro le colline, invece è già tramontato almeno da 8 minuti, perché gli ultimi raggi che lui ha emesso arrivano a noi dopo 8 minuti. Quindi le certezze che abbiamo di percepire con i nostri sensi dei fatti assolutamente veri sono certezze vane, errate, sono solo sensazioni importanti per vivere, ma non sono certezze scientifiche. Il Sole è uno dei 300 miliardi di stelle della nostra galassia, della Via Lattea. E è immaginabile che molte altre stelle della galassia abbiano pianeti e satelliti che girano intorno a loro, come avviene per il Sole. Allora, i 300 miliardi di soli diventano poi una cosa inimmaginabile in assoluto se ci aggiungiamo i loro satelliti o i loro pianeti. Sono numeri, immagini immense che non riusciamo a concepire. Non solo. Per allargare ancora il nostro sguardo, noi finora abbiamo parlato della galassia Via Lattea, dove noi abitiamo. Secondo gli scienziati, sembra che l'universo sia composto da miliardi di galassie, come la nostra, che gli astronomi continuano a individuare e a nominare. Noi siamo veramente minuscoli, noi esseri umani siamo la parte di una struttura immensa di cui non riusciamo a immaginare né tantomeno a esplorare nel suo insieme. Però ci possiamo domandare chi è o che cosa tiene assieme questo immenso universo, ricordate, miliardi di galassie. Chi lo tiene assieme? Chi ne detta le regole? E da sempre gli uomini hanno cercato di capire. Una cosa è certa, che c'è una energia che pervade tutto l'universo e che condiziona il movimento, l'esistenza, lo sviluppo di tutto quello che avviene nell'universo. Allora, da parte nostra, noi piccoli, piccoli, piccoli, che interessi possiamo avere davanti a questo universo enorme? Di riconoscere che siamo parte di questo enorme universo e di cercare di utilizzare a nostro favore personale quell'energia che agisce nell'universo. Si parlava di energia di attrazione, che la forza principale fosse quella della gravitazione. Però poi è intervenuta la fisica quantistica e ha detto: ma forse non è proprio così. Noi in questo momento non ci inseriamo nel pensiero della fisica quantistica, seppure molto interessante. Pensiamo a una cosa, un esperimento. Se noi lanciamo in aria una pietra, quella, raggiunta una certa altezza, ricade al suolo, perché è condizionata dalla forza gravitazionale. Questo si capisce perfettamente. Quindi questa forza gravitazionale qualcosa c'entra, anche se la fisica quantistica ci dice che non è una risposta concreta. Pensiamo anche che mentre noi camminiamo in salita, percepiamo una notevole fatica a camminare in salita. E se non ci fosse il suolo che ci sostiene, cadremmo sicuramente verso il basso, come ha fatto la pietra che noi avevamo lanciato in alto e che è ricaduta. Quindi noi, le pietre, le stelle, le galassie, siamo tutti condizionati dall'energia che pervade l'universo. Come si fa a utilizzare questa energia? Ognuno ha le sue soluzioni, perché la chiave per utilizzare l'energia è consegnata a ciascuno di noi, è consegnata al nostro intuito, alla capacità di osservare, alla capacità di riflettere e di emozionarsi, alla capacità di dialogare con gli altri. E quando ne capiremo la chiave per l'accesso all'energia, la nostra vita cambierà e noi ci sentiremo padroni di noi stessi. Per chiudere, un augurio a ciascuno di voi che ascoltate: che la vita, attraverso la conoscenza, vi faccia capire dov'è la chiave e come usarla per vivere felici e a lungo. Da Radio Big World, buona giornata e alla prossima.